Now, the meaning of the third satna precept out of the five precepts is, I undertake the training rule, to refrain from unlawful sexual relations. So basically from adultery, any form of adultery. Quindi il terzo precetto che abbiamo appena recitato è il precetto di mantenersi puri sotto l'aspetto dell'adulterio, di non commettere gli atti impuri. And so here adultery refers to not only having sexual relations with a person who is married, but also to interfere with someone who is in a stable relation, long-term relation with another person. Quindi significa anche appunto non avere relazioni sessuali con qualcuno che è già sposato, ma non solo quello, anche con qualcuno che è in una situazione sentimentale stabile da lungo tempo. No, we've come to the end of this second 10-day period, and so it's time for a closing talk. It's time to briefly review what we've done during this 10-day period, and to say a few things about mindfulness in daily life. Quindi appunto il tempo della chiusura di questo secondo periodo di ritiro è arrivato. Quindi faremo una specie di piccolo riassunto di quello che è stato visto in questo periodo. E mindfulness in daily life. E quindi anche qualche accenno sulla consapevolezza nella vita quotidiana. No. During the opening talk, a number of reasons for practice suddenly were mentioned among facing a loss in any form, loss of parents, loss of relatives, loss of a friend, or loss of a job, or some major material item. Quindi tra le ragioni che avevamo indicato che potevano spingere la pratica meditativa, avevamo indicato alcune cose come la perdita di genitori, di parenti, amici, anche la perdita del lavoro, o altre maggiori cause. We also mentioned that for some reason to practice is that somehow or other they no longer feel contented, no longer feel satisfied with a very materialistic life. Tra le altre motivazioni che avevamo indicato, qualcuno può anche sentirsi non più soddisfatto delle condizioni della vita materiale in cui vive, in cui è immerso. And so realizing that just going in pursuit of material items does not provide ultimate happiness, and then as a result of this starting to search for something else. E quindi realizzare che il conseguimento della felicità materiale non è più soddisfacente per lui, e quindi cercare qualcosa di differente. Now, for some, it's coming a reason to go on a retreat might simply be the wish to sharpen one's mind, to sharpen one's mindfulness, to develop greater concentration, and possibly also to gain a better understanding about oneself as well as the world around. Per altri la motivazione potrebbe essere invece quella di acuire la propria mente, di guadagnare un po' di consapevolezza, di concentrazione, e anche capire meglio se stesso e gli altri. Now, for some who are facing a lot of stress and certain tension, maybe even fear, worries in their day-to-day life, this might suddenly become a trigger to look for something else and then go into a retreat. Quindi per altri ancora il fatto di essere sotto stress, di avere tensioni, preoccupazioni, questo può causare, essere la motivazione per intraprendere un ritiro, diciamo, entrare in un ritiro di meditazione. No, the other reasons obviously exist. The list probably is much longer than this. In terms of a 10-day retreat, and for some even more than 10 days, significant certain changes take place. And so we can say that in terms of our ethical conduct, there's a clear improvement, a clear refinement of our bodily conduct as well as verbal conduct, and certainly then also a relative purification of the mind. Quindi certamente molte altre motivazioni possono esserci che spingono le persone appunto a intraprendere un ritiro di meditazione. Diciamo, noi in questi meditanti, in questi 10 giorni o anche di più di ritiro, possono comunque aver già sperimentato dei miglioramenti per quanto riguarda la condotta etica, un certo raffinamento della condotta verbale, fisica, e anche una certa purificazione della mente. And what do you feel? Is your level of mindfulness, your level of concentration, your level of intuitive wisdom now worse than at the beginning of the retreat or better than at the beginning of the retreat? Quindi che cosa pensate? Il vostro livello di consapevolezza, di concentrazione, anche di conoscenza è maggiore o minore di quando siete entrati nel ritiro del primo giorno? Hopefully better, yeah. Speriamo meglio. So most your level of mindfulness, your level of concentration and intuitive wisdom for sure has greatly improved, because just in terms of the development in your meditation practice lately, you've reported certain things during the interviews that on day one or day two you could absolutely not observe and not report and not understand. Quindi sicuramente da quello che diciamo è uscito fuori dalle interview, dall'intervista, è quello che c'è stato un grande miglioramento per quanto riguarda i livelli di concentrazione, di consapevolezza, in quanto rispetto ai primi giorni che praticamente non riuscivate ad osservare gli oggetti. And so usually when people do a retreat, when they come on a retreat, at least some may be quite exhausted and quite worn out from the usual daily work life, and then a 10-day period of intensive retreat brings about some major changes, and suddenly by the time the retreat ends, people usually their facial expression is much clearer, much more balanced and suddenly calm and peaceful. Quindi voi appunto entrando in un ritiro, venendo da una situazione magari lavorativa stressante, venendo stanchi, esausti, consumati, Dopo 10 giorni di ritiro si può notare un certo cambiamento, specialmente nelle espressioni facciali, molto più calme, aperte, rilassate. And so I believe in the course of this retreat, also in terms of equanimity, so non-reactivity of the mind, neutrality of the mind, some progress has been made. And so the experiences in terms of equanimity gained during a retreat then may serve as a reference point during one's daily life. So whenever one is in a somewhat challenging situation, one can and one finds one is somewhat reactive, then one can briefly remember the equanimity from the retreat and then take a more balanced approach to whatever the situation might be. Quindi anche per quanto riguarda l'equanimità, la neutralità della mente, la non reattività, possiamo dire che anche questo è qualcosa che è stato migliorato. E quindi anche nel questo stato di equanimità sviluppato durante il ritiro può servire come punto di riferimento durante la vita quotidiana, quando ci sono delle situazioni che mettono alla prova, e vedere la nostra reazione e ricordarsi di come era lo stato di equanimità mentale durante il ritiro. Questo può servire come punto di riferimento. So what we have ahead of us is a period of transition, namely going from intensive mindfulness practice or intensive mindfulness retreat to worldly life, and then also to our usual daily activities, and then possibly daily meditation practice. And so some advice to those two areas might be useful. Quindi adesso quello che ci aspetta, quello che abbiamo davanti, è un periodo di transizione. Un periodo di transizione tra un momento, un periodo di meditazione intensiva verso la vita quotidiana, la vita mondana, e appunto verso le attività quotidiane e verso anche la meditazione, si spera, quotidiana. E quindi adesso daremo dei piccoli dei consigli su questo aspetto. So in terms of a transition from intensive retreat framework to daily life, it might be worth considering that one should take a gradual and smooth, or let's say careful transition. And during an intensive retreat, a fair amount of refinement of the mind takes place. One may, as a retreater, one might not realize how much refinement has taken place. And suddenly, then only when one is back in the outside world, one might realize to some extent. And so it's important that one takes a gradual transition, so not go immediately back to a super intensive, heavy work life. And this might that might be rather counterproductive, or it might not. Also, might not be a good idea to, let's say, after an intensive retreat, immediately go to a movie theater and watch a movie, or even worse, to go to hit a discotheque. Per questa appunto transizione, dovrebbe essere qualcosa di graduale, dovrebbe essere qualcosa di leggero, semplice, in quanto uno stando in un ritiro non si rende conto del grado di raffinamento che ha raggiunto la mente, se, più che altro se ne rende, se ne potrà rendere conto forse dopo il ritiro. E quindi un consiglio è quello di non immergersi diciamo, immediatamente in situazioni di lavoro, situazioni di vita molto intense. Per esempio potrebbe non essere una buona idea quella di andare subito in un cinema a vedere un film, oppure addirittura quella di andare in una discoteca. So that, no, you might certainly want to, during the few days of transition, you might still want to do a couple of formal sittings a day. You might still want to schedule some quiet time, and so obviously also some activities, some involvement with society in general, and suddenly then gradually you go back into your daily life. Like this, it makes much more sense. Quindi, durante questi pochi giorni di transizione, sì, il consiglio potrebbe essere quello di fare almeno un paio di sedute meditative formali, anche di mettere in programma un po' di tempo di tranquillità, e qui anche inserire chiaramente un po' di tempo del coinvolgimento nella vita sociale. E questo, diciamo, sono, ecco, fare queste cose gradualmente. An intensive retreat of 10 days, of 20 days, brings about major changes, and also can be a great source of inspiration to continue with the practice. So inspiration, and then based on this certain determination to keep keep up a daily practice. And then in the future, it might be a good idea to schedule alternate periods of practice at home, so a little bit, half an hour, 1 hour, 2 hours, as much time as one can afford, and then when an opportunity arises, to go again on an intensive retreat. And then after retreat, this then will be followed again by a period with regular work and some formal practice. And so if you keep doing like this over a longer period of time, not just 1 or 2 months, but rather several years, many years, then gradually some profound changes will take place. And daily practice is not to be underestimated. There's much that can also happen in that area. Obviously, it's not going to be as intensive as intensive meditation practice, but slowly, slowly, things do change. Quindi, quindi per il futuro, dopo, diciamo, dopo un 10-20 giorni appunto di ritiro, qualche cambiamento notevole, maggiore si può verificare. E questo può dare appunto una buona ispirazione per continuare nella pratica, e quindi basandoci su questo mantenere una pratica quotidiana. Quindi potrebbe essere buono nel futuro continuare a mantenere 1-2 ore almeno di pratica di meditativa a casa. E quando la possibilità c'è di continuare a di fare un altro ritiro intensivo, questo poi a sua volta ispirerà ancora di più alla pratica a casa. E durante, diciamo, questi periodi di alternanza tra la pratica a casa e la pratica in ritiri intensivi, se continuata per lungo tempo, può dare dei risultati notevoli, e è una cosa da non sottovalutare questa, perché queste cose funzionano nel lungo periodo, si vedono i risultati. No, a good foundation for your daily practice as well as intensive practice, obviously, is certainly keeping the precepts. Now, during intensive retreat, usually we recommend the 8 precepts. You know, during daily practice, if you manage to observe the 5 precepts, that will be already a big achievement. And that then is certainly the that will be a good foundation to then develop concentration and intuitive wisdom. And then I would say, if you have, let's say, 1 or 2 hours that you can spare for intensive practice, for daily practice, then might consider doing maybe 1 hour of loving kindness meditation, so metta meditation, for instance, during the morning hours of the day, and suddenly then 1 hour of a formal mindfulness practice, Satipatthana practice. The loving kindness satna practice usually helps satna to, or usually contributes to, a harmonious relationship to the beings satna around oneself, and so it also brings harmony and loving kindness into one's own mind. And in particular, if let's say some social problem has arisen of whatever kind, if one radiates that loving kindness to oneself as well as to the people involved, then over time this will make a change, or this will bring about a positive change. At least it will bring about a change in one's own mind, and thoughts of ill will be replaced by thoughts of loving kindness. And so oftentimes others also feel this, and suddenly then they start responding in a positive way. Sorry. Quindi una buona fondazione per mantenere la pratica è quella di mantenere i 5 precetti. Già questo è un importante passo. Quindi per anche una fondazione, per una base per sviluppare la concentrazione e l'insight, la saggezza intuitiva, è quella di mantenere una pratica di 2 ore almeno al giorno. Sarebbe molto, molto buono, molto positivo, e magari poter fare o la prima di queste ore, magari specialmente alla mattina, radiando gentilezza amorevole, metta, e la seconda ora, in un altro momento della giornata, dedicarla alla pratica della consapevolezza, appunto, dei 4 fondamenti della consapevolezza, il Satipatthana. Per quanto riguarda la gentilezza amorevole, metta, questa irradiare metta porta sicuramente a un'armonia verso ciò che vi sta intorno, e appunto un'armonia anche nella mente, e specialmente se ci sono dei problemi sociali pesanti intorno, il radiare metta verso se stessi e verso gli altri con il tempo crea la differenza, qualcosa si trasmette verso gli altri che appunto può creare una certa armonia. Quindi è un aspetto molto importante da tenere presente. No. From a practical point of view, a few things might be quite certainly helpful to make one's or to integrate mindfulness into one's daily life. So, for instance, slowing down some of one's activities, at least during periods when you decide to be really mindful. And then also one might certainly consider talking a bit less and saying things that are really meaningful, and certainly then not certainly saying what is just useless talk. Quindi qualcosa appunto per migliorare, per la mindfulness, per diciamo, appunto la vita di tutti i giorni. Dovrebbe essere anche quello, un consiglio è quello di rallentare, di fare le cose con più calma, e anche quello di parlare di meno, e quando si parla cercare di, appunto di dire cose importanti, sensate, evitare le chiacchiere che a volte appunto sono inutili. No, our time, or during our present time, or our present time could be characterized as a time for many of multitasking. So doing five things at the same time. And this multitasking is rather challenging. And what do you think? Is helpful for mindfulness practice or not? Not really. And la nostra epoca, diciamo, è l'epoca del chiamata del multitask, cioè fare molte cose contemporaneamente allo stesso tempo. Ma questo potrebbe essere un po' difficile, prova un pochettino, secondo voi aiuta la consapevolezza oppure no? Not really. Non veramente. So instead of with this multitasking being quite challenging, it then might be a good idea to just reduce one's activities and to do one thing at a time and to be fully concentrated on that. Quindi in termini appunto per quanto riguarda queste questo sistema delle molte attività contemporanee, potrebbe essere un consiglio quello di invece ridurre le attività e concentrarsi più su un'attività alla volta. And so in performing daily activities, one could at certain times simply just come back to the rising and falling movement of the abdomen and see what is happening there, see what it feels like, and then continue with what one is doing. Sempre in termini per quanto riguarda le attività quotidiane, ogni tanto un consiglio è quello di tornare, di fermarsi, osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, vedere che cosa sta succedendo lì. E poi dopo, diciamo, osservarlo per un po', e poi dopo tornare alle attività quotidiane. And when one is in the presence of other people, one is interacting with others, then one might happen that let's say one is with people one doesn't know, and so there's maybe some strain there, and then just briefly just to go back to to one's rising and falling, to see what's happening there, and to continue with interaction. E anche quando si interagisce con le persone, quando magari in un contesto sociale ci sono persone che non conosciamo, questo che delle volte ci può creare dei piccoli stress nella mente, piccole paure. Bene, anche in quel caso il ritornare al proprio respiro, al salire e l'abbassare dell'addome, osservarlo, continuare un po' con questa osservazione e poi dopo ritornare alla interazione con gli altri. No, at times when there's a lot of work to be done, we might lose our mindfulness, and then we get carried away, and we might find ourselves running from one place to another, and getting a bit stressed out. During such periods, it's important to, on occasion, remember to be mindful, and to come back to mindful observation of some simple activity, such as maybe mindfully and slowly opening a door, mindfully slowly closing a door, or taking an item with mindfulness, and so on and so forth. Quindi in situazione, per esempio, quando abbiamo molto lavoro, c'è un po' di stress nella mente, perdiamo la consapevolezza, siamo portati via da queste preoccupazioni. Bene, in quel caso anche è importante avere il momento di ricordarsi di essere consapevole e magari attivarsi in qualche piccola attività semplice con consapevolezza, come potrebbe essere quello di aprire una porta con consapevolezza, lentamente, sapendo cosa si fa, e poi anche spostare qualche piccolo oggetto, qualche cosa, piccole azioni, ma con consapevolezza. No, one of the benefits to be gained from mindfulness practice is, as Sutton explained during the retreat, contentment, the arising of contentment, of happiness. And contentment also in the sense of being contented with whatever is there, with what everyone has, whether this is a lot or very little, it doesn't matter. This aspect, santutti in the Pali, in the scriptural language, then means that probably in our life we don't, or if we find that our life is pretty complicated, and there's many distractions in it, to simplify things. So if, let's say, in a day we read 3 newspapers, and then on top of that we read the news on the internet, and then on top of that we maybe also watch TV news, then this might be a little bit too much. And so then we can simplify this. And so now, as a result, we'll gain some time for mindfulness practice, and there will be less sources of distraction. So that's for everyone to do himself or herself and be creative. Quindi, un altro aspetto, appunto, quello per che favorisce la consapevolezza, è quello del essere di accontentarsi e anche della felicità. Quindi, appunto, con qualsiasi cosa, uno dovrebbe essere contento con qualsiasi cosa che ha, che sia tanto, che sia poco. Questo è i santutti. Santutti. In Pali questo accontentarsi si chiama santutti in lingua Pali. E un'altra cosa è quella di se la nostra vita è complicata, ci sono tante cose, cercare tante distrazioni, cercare di semplificarla. Per esempio, se uno ha l'abitudine di leggere, ne so, alla mattina 3 giornali differenti di notizie, poi magari accende il computer e vede su internet altre notizie, poi accende la televisione e ancora lì altre notizie. Beh, questo potrebbe essere un pochettino complicante per la mente. E a volte semplificarsi la vita significa, appunto, ridurre questi input, e facendo così praticamente si può guadagnare più tempo per la consapevolezza e avere meno reattività nella mente. No, another point that might be worth mentioning is that of clear comprehension in one's daily life. Clear comprehension in the sense of that before engaging in some activity, one briefly checks for oneself, is what one is planning to do beneficial and suitable or not. If something is beneficial, however it's not suitable, then one might better not go ahead. If something is both beneficial and suitable, then to go ahead. Quindi, scusate, un altro aspetto che mi sentivo di prima, diciamo, in questo modo per semplificarsi la vita è importante anche la creatività, che ognuno si inventi un pochettino le proprie condizioni, il proprio modo per semplificarsi. Per quanto riguarda le attività quotidiane, è anche importante invece la chiara comprensione di cosa si sta facendo, e E quando uno si mette appunto in queste situazioni, sta per fare qualche situazione, domandarsi se un'azione è benefica oppure no, ma anche se è adatta oppure no, perché un'azione potrebbe essere benefica ma non adatta, allora sarebbe meglio evitarla. Se invece l'azione è benefica ed è adatta al momento, alla circostanza, allora andare avanti, farla. Before coming here, I spent some time at my mom's place, and then she has a TV. In Lumbini, we don't have a TV, or we don't watch TV. So it was, my mom and I watched some. There was some, what do you call it, a thriller. And afterwards, I thought, my goodness, it's agitating the mind unnecessarily. It's really interfering with sleep, and so it's taking up a lot of time. You think about the thing, you think about what you've seen, maybe for another day or two, and so trying to figure out the details. And is that really worth it? And there's a certain attachment to it. There's this, or like wanting to be entertained, just to sit back and do nothing and just to watch this certain TV thriller. And so things like this, it's, we do all the time, and we don't even realize certainly what we're doing. We don't realize the consequences, the implications of this, because we can, don't compare. We have nothing to compare to. And so on occasion, it might be worth looking at certainly the various activities in a day, and to check very carefully what is beneficial, and whether something is really suitable or not. What's the purpose? Is it purposeful or not? Does it help us to develop more mindfulness? Does this activity, is it beneficial? Is it suitable to develop more concentration and also to develop intuitive wisdom? And if we find the answer is no, then we might as well not engage. Una piccola cosa che è successa venerabile quando prima di venire qui è stato ospite, è stato a casa di sua madre, e lì ha avuto l'occasione di stare con sua madre e vedere un telefilm, e questo, dopo aver visto questo film, ha realizzato che quanto potesse essere agitante per la mente queste immagini, questo film, la mente ha generato come una specie di attaccamento per queste immagini, volersi continuare a vedere queste immagini, un certo anche stress per quanto riguarda il sonno, continuare a pensare a queste immagini per giorni e giorni che rimangono nella mente. Tutto questo è innecessario, non serve ovviamente. Quindi questo succede, può succedere che noi durante tutta la giornata, nella vita quotidiana, facciamo molte attività delle quali però non siamo pienamente consapevoli se sono benefiche o no, perché a volte non abbiamo un punto di riferimento, un paragone. Allora potrebbe essere importante a volte fermarsi un attimo e domandarsi su queste attività: a che scopo lo sto facendo? Aiuta questa attività alla comprensione, alla consapevolezza, alla concentrazione, alla conoscenza oppure no? E quindi capire ciò e vedere se è il caso di continuare in queste attività oppure no. No. Another aspect to keep in mind is modern applications of mindfulness. And so we here in Europe and also in the States, the interest in mindfulness has greatly increased. And so conferences are now being organized, which are centered on various on mindfulness itself, and then applicate benefits of mindfulness, and then modern applications of mindfulness. So it seems that gradually society is waking up and realizing the benefits of mindfulness. Now, the Buddha has said, or in this regard, the Buddha has said, mindfulness, I declare, is helpful everywhere. And so mindfulness is helpful not only during intensive mindfulness retreat, but also during our other activities in life. Now, modern applications of mindfulness are such as mindfulness in raising children. And Federica, who is with us today and has been with us for the last couple of days, would be a wonderful example. Coming on a retreat as a young mother with a daughter, and then trying to integrate both of these things, caring for her daughter as well as deepening her mindfulness practice. Now, dunque, un'applicazione chiamiamo moderna, contemporanea della consapevolezza si sta generando, specialmente negli Stati Uniti, una attenzione sempre maggiore alla consapevolezza. Vengono fatti dei convegni, ci sono delle istituzioni proprio che si trattano di questo. E quindi c'è come un chiaro risveglio della società, delle società, verso questo aspetto, verso l'aspetto proprio della consapevolezza. Il Buddha stesso ha detto che la consapevolezza è un aiuto ovunque sia, in qualsiasi campo si applica. Questo che possa essere un ritiro di consapevolezza, ma in tutte le attività quotidiane. E un esempio che ha citato il Venerabile è quello di un meditante che è insieme a noi, Federica, che è un buon esempio, è anche un aspetto, della consapevolezza delle varie attività quotidiane, è quello importante anche, per esempio, di allevare i figli. E quindi Federica, un meditante che è con noi, è un buon esempio di questo, in quanto ha dei figli, una giovane madre, pure viene ad un ritiro, pratica la consapevolezza, e questo sicuramente porterà dei benefici. Now, mindfulness in child raising will be beneficial both for the parents as well as for the children that are being raised. And raising children is obviously not an easy task. There's challenges coming up. And this regard, to maintain wholesome mental qualities is important for both parents as well as for the children. Quindi la pratica della allevare i figli consapevolmente è una buona pratica, una buona cosa sia per i genitori che per i figli stessi. E anche se appunto perché a volte può essere molto è una sfida abbastanza dura, può essere a volte, ed è importante mantenere una qualità degli stati mentali salutari sia in se stessi che nei figli. No. Another area, or related certain area, just to draw your attention to, are the Buddhist youth courses that are being organized in Burma as well as by now a number of other countries. And in some place, I think in Switzerland, there's one place where they're being organized, and now also in Belgium. And suddenly, then further in the U.S. and U.S. and Malaysia. So these courses are nothing other than courses during which young adults from the age of about 7 or 9 to 17 are being introduced to both the practice of mindfulness as well as the basic teachings of the Buddha. And the young adults are exposed to these things, and usually these courses are very popular both among the attendants, the participants, as well as the parents. And the parents like these courses a lot because when they get their children back, they're so much more well behaved and respectful of their parents, respectful and considerate. And there are, maybe to add one more sentence, at IMS, Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts, they are offering a similar course, but for parents and children together. And so those are very seem to be very lively courses with lots of creativity, and mindfulness is included. Quindi un'altra area di quale si può parlare per quanto riguarda appunto lo sviluppo della consapevolezza alle varie figli. È interessante vedere come in altre nazioni, come sì, chiaramente in società come quella burmese o altre, che vengono fatti dei corsi di cultura per i giovani, a partire dai 7 anni fino ai 17 anni. Queste vengono fatte anche in Europa, in Svizzera, in Belgio, negli Stati Uniti, in Malesia. Questi corsi per questi appunto giovani adulti introducono sia i fondamenti della consapevolezza e anche gli insegnamenti fondamentali del Buddha. Questi giovani in genere che frequentano questi corsi sono molto contenti di farlo, e anche i genitori sono molto contenti. Questi giovani adulti partecipano, questi ragazzi partecipano, perché quando ritornano notano dei grandi cambiamenti, come che sono, che si comportano molto bene, sono molto rispettosi verso i genitori, e quindi questo contribuisce. E un'altra cosa che in America Insight Meditation Center Society, Insight Meditation Society di Barre, Massachusetts, vengono fatti anche lì dei corsi di questi corsi di cultura buddista, ma in questo caso ci sono sia vengono invitati, li fanno insieme sia i genitori che i bambini, e sono molto vivaci, vengono fuori delle atmosfere molto belle e molto interessanti per tutti e due. No. It appears that mindfulness is also being more and more introduced into the sector of education, so mindfulness at schools. In America, Richard Shankman is a well-known person for this, who started, I think, a network. And in Germany, this also exists, mindfulness in schools, yes? And so mindfulness in education that is not only that the students practice mindfulness every day for a little little bit. In some schools there's even some time set aside for this. And but then it's also about the teachers teaching with utmost mindfulness. And so integrating mindfulness into teaching a class can be, I suppose, very, or seems to be, very helpful. Now, if you think of the modern students, some seem to be rather unruly and rather challenging, and there's some, again and again, teachers who can't tolerate it anymore and give up their jobs. This is not really necessary. When strong equanimity is present, then these kind of situations should be under control. Quindi questo aspetto, diciamo, della consapevolezza, viene introdotto anche nelle scuole, nell'educazione. E un promotore di questo sistema è Richard Chankman. Diciamo, questo tipo di educazione alla consapevolezza viene fatto a volte con piccoli particolari, stabilendo del tempo a parte nell'educazione, nel tempo diciamo scolastico, proprio per la consapevolezza. Ma non solo questo verso i ragazzi, ma anche verso gli insegnanti stessi. Gli insegnanti vengono preparati per operare con la massima, diciamo, per insegnare con la massima consapevolezza. E questo è molto di aiuto sia a loro stessi che agli studenti, perché molto spesso, diciamo, nei tempi moderni succede che a volte ci sono dei ragazzi che sono veramente non molto, non si comportano molto bene e possono provare molto, possono essere molto duri da sostenere nelle classi, e spesso ci sono degli insegnanti che non riescono più a sostenere le situazioni del genere e lasciano il lavoro. Questo potrebbe non succedere invece se ci fosse, se appunto si applicasse di più la consapevolezza. No. Now then there is a modern application of mindfulness known as mindfulness-based stress reduction, and Andrea, who is with us today or since yesterday, she's an expert on this and can tell you more about it. But basically, as far as I understand, is people are participating in mindfulness-based stress reduction programs. So mindfulness is there, some bodily exercises are also there, and in regular meetings and reflections and whatnot. And over a period of how many? 8 weeks or so? 8 weeks. People get together once a week and practice for an entire day. And so over a period of 8 weeks, some substantial benefits are being gained. So reduction in stress and better ability to deal with pains. And then this is suddenly being introduced more and more also into hospitals. Please correct me if I'm wrong. Now I've heard even patients who are scheduled to undergo surgery, they are being asked to do stress reduction or this MBSR beforehand in order to remain relaxed when they're in the operational theater. and so there's that, and so, and some scientific research also has been done, and this mindfulness-based stress reduction courses have helped people with chronic depression to then cut the relapse rate into half. And so the scientist there is Teasdale. Teal, is it Teal with L or S? I don't know how to pronounce Teal. It. It was Mark Williams. Oh, Mark Williams is another one. Teasdale. Teas, T-E-A. T-E-A-S. Yes, that's the name of the person. Teasdale. Un'altra area in quale la consapevolezza sta avendo, si apre in questi periodi, è quella del chiamato mindfulness stress reduction, la riduzione consapevole dello stress. Andrea, che è arrivata ieri qui con noi, che è a conoscenza perché lavora in questo campo, forse vuol dire di più lei, praticamente questi si tengono dei corsi di questo tipo, di questa stress reduction mindfulness, dove le persone si riuniscono per 8 settimane, sono questi corsi, una volta a settimana si vedono insieme, esercitano la consapevolezza, fanno degli esercizi, degli incontri, e questo sembra che appunto nel termine di 8 settimane riesca a portare dei buoni risultati in termini di riduzione dello stress, nei cambi riduzione dello stress nell'affrontare i dolori, le sofferenze, e questo tipo di di tecnica adesso si usa anche negli ospedali. Adesso spesso in alcuni ospedali viene usata, viene insegnata, viene applicata ai pazienti prima che vengano operati, in modo da ridurre la paura, lo stress, quando il paziente sta per essere portato nella sala d'operazione e tutto quanto il resto, e questo riduce molto i livelli di stress. Anche alcune ricerche sono state fatte per quanto riguarda questi corsi, e in quanto sembra che siano molto utili per la riduzione della depressione, della depressione cronica. E riescono a ridurre i casi di depressione cronica fino alla metà, e una persona che lavora in questo campo è questo Teasdale and Mark Williams from Oxford University, from Australia, Oxford University. Now, mindfulness has gradually also found its certain way into the work life, and you can even say into big business, and gradually some big international corporations are realizing the value of mindfulness. Some American mindfulness teachers have taught the executive board members and company officers of Monsanto how to practice mindfulness. And so it was so successful that they were asked to then teach mindfulness also to other employees of Monsanto. Bayer Pharmaceutical Company apparently also has trained some of its staff in mindfulness, and there's a number of other big business names that have seen the value of this. Now, it's obvious Someone who's trained in mindfulness has learned to observe carefully, has learned to be attentive, to be diligent, also to be to pursue an ethical conduct, and for a company. When you have people like this, they work obviously much better. No, much better than the people who are absent-minded and are negligent in their work and maybe are also unethical in their conduct. Anche nel mondo del lavoro la consapevolezza sta in qualche modo questi corsi di consapevolezza stanno prendendo piede. Un insegnante di consapevolezza ha tenuto dei corsi ai quadri manageriali della compagnia della Monsanto, della multinazionale, appunto su come praticare la consapevolezza. E questi corsi sembra che hanno avuto un gran successo. E adesso stanno venendo insegnati, vengono fatti anche per gli altri impiegati, e sembra che anche la Bayer, la famosa casa farmaceutica, sta facendo tenere dei corsi di consapevolezza per i suoi impiegati, in quanto chiaramente I manager di queste grandi società si sono resi conto dell'importanza della consapevolezza e dell'importanza di avere del personale che agisca appunto in maniera ponderata, consapevole, bilanciata, che abbia chiaramente una certa anche morale in quello che fa. Chiaramente tutto questo è di grande valore. Consideriamo invece che potrebbe essere l'opposto, potrebbero essere degli operai negligenti, che non seguono codici morali, eccetera, e la differenza è ben chiara. No. The value of mindfulness has also been realized to some extent by the law professions. So, for instance, in the US, law students, lawyers, professionals, some are engaging in mindfulness practice, and mindfulness has also helped to promote to support, to settle cases outside of court through mediation. Now, when it comes to mindfulness, then mindfulness in speaking and mindfulness in listening are extremely important. And so when a conflict has arisen, and sooner or later this happens, then we want to make really sure that we listen with compassion, that we listen attentively, so with mindfulness, and also with compassion, with empathy, and when we speak, that we speak mindfully after carefully reflecting what we are going to say and the consequences of what we are going to say. Quindi anche nel campo dei professionisti che lavorano nel campo della legge, della giurisprudenza, sembra che stiano orientandosi verso questa pratica della consapevolezza, e questo aiuta anche a comporre delle cause, delle questioni al di fuori delle corti stesse. Ed è importante appunto quando la consapevolezza sia dell'ascoltare che del parlare, è importante quando in qualsiasi conflitto sorge di essere sicuri in quel momento di ascoltare con consapevolezza, con compassione l'altra persona, capire. E poi quando parliamo lo stesso, diciamo, usare consapevolezza, usare compassione, dire ciò che veramente è utile, sì, e questo, diciamo, porta sicuramente dei grandi benefici. And oftentimes, the courts are overloaded with certain legal cases, that being one factor. And then, on the other hand, certain people also realizing it's not really necessary for every thing to appeal to a court or to go to court. And that by way of mediation, by way of mindfulness speaking and listening and negotiation, in this way, then conflicts can be settled. And then to the satisfaction of both parties. Infatti, perché appunto, diciamo, molto spesso in tutte le azioni i tribunali sono stracarichi di lavoro, e questo effettivamente a volte non è necessario, perché molti di queste delle persone si rendono conto che molti di questi conflitti possono essere risolti in altre maniere, in via del attraverso l'ascolto, attraverso la negoziazione, sì, attraverso l'ascolto. E questo chiaramente è di grande, alla fine, quando succede, diciamo, che si compongono questi casi, è di grande soddisfazione per tutte e due le parti. Do you have any, or are you aware of any other areas where areas of application of mindfulness? La domanda se avete qualche altra idea o conoscete qualche altra area dove la consapevolezza viene applicata. Anything else? No? Okay. So, and probably in the future, still many, many more areas will come up, and will gradually, gradually be developed. E quindi, probabilmente, con speranza, diciamo, altre aree dove la consapevolezza potrebbe venire applicata sorgeranno. No. And a bit certain a different certain topic. There's the term heritage. Heritage means preserving and protecting some valuable item for the future, for future generations. Heritage and heritage protection is being practiced with regard to monuments, is being practiced with regard to entire areas of land, with regard to national parks, and just outstanding pieces of architecture or of nature. Heritage. Non so bene come si traduce in italiano, comunque tutto quello che ha a che vedere con la salvaguardia del patrimonio, patrimonio sia culturale che naturale, che si applica appunto a monumenti, a terre, a parchi nazionali, architettura, diciamo, sì, a monumenti. Now, the World Heritage Committee and the World Heritage Convention distinguishes between two types of heritage, namely tangible heritage, which means which we can touch, which is material, and intangible heritage. When it comes to the Dhamma, it certainly falls under intangible heritage. It's a heritage that is of extraordinary value, and that has been of value already for over 2,500 years that is of value for us today, and hopefully will be preserved for future generations and will also serve future generations. Sì, avevo dimenticato l'introduzione prima, che appunto cambiavamo di argomento, appunto quest'altro argomento che si sta introducendo adesso. Quindi la Organizzazione Mondiale per il Patrimonio fa una differenza tra il patrimonio mondiale tangibile e quello non tangibile, e appunto il Dhamma possiamo considerarlo come un patrimonio mondiale non tangibile, ed ha un grande valore, un valore che è stato trasmesso a noi da, attraverso un arco di tempo di 2500 anni, ed è arrivato a noi così, ed è di grande importanza che anche speranza questo patrimonio possa essere trasmesso per le generazioni future. No, this center here, PMDCLG, has been set up to run retreats and also to preserve and protect this valuable Dhamma heritage. Quindi questa questa, diciamo, istituzione, questo posto che amici liege, è stato creato sì proprio per tenere dei ritiri, ma proprio anche per mantenere, per preservare questa grande eredità appunto del Dhamma. No, Pianichileji is a precious place, and many people are linked to it over the years. Questo posto è un posto molto prezioso, e molte persone sono collegate a questo posto durante tutto l'anno. No. This place deserves to be actively maintained, protected, and preserved, so that the Dhamma heritage here can be passed on from one generation to the next. Quindi questo posto è di grande importanza affinché venga preservato, venga protetto, affinché appunto l'insegnamento possa passare da una generazione alla generazione prossima, futura. No, your active participation and cooperation in this regard is required to protect the Dhamma heritage. And so usually in a meditation center there are many areas where help is needed. So in some centers help is needed with gardening, in other centers there might be or help is needed with cooking or some technical aspects, and with administration and so on and so forth. Quindi la protezione di questo grande patrimonio che abbiamo qui è un po' la responsabilità anche di tutti, come tutti i patrimoni hanno bisogno di una certa cura, e quindi aiuto potrebbe è necessario, per esempio negli ambiti come potrebbe essere quelli del giardinaggio, della cucina, dell'amministrazione. Oh, a meditation center can be thought of, can be related to or understood to be like an oasis in a desert. It is an oasis of peace, an oasis of purity, of conduct, an oasis where people try to purify the mind. And now, obviously, there are not so many places like this around, certainly in a country. And so these are, an oasis is a place, you know, when you come from the desert, you're thirsty, and you go to the oasis in order to find some refreshment. So a meditation center is more or less, performs more or less the same, the same function. Quindi il centro di meditazione, questo come altri, possono essere comparati a delle oasi del deserto, dove uno può trovare la pace, la purezza, la serenità, il purificare la mente. E sì, diciamo, posti come questi non ce ne sono molti in tutte le nazioni. Diciamo, è giusto, diciamo, compararlo a degli osi, dei posti dove si può trovare, diciamo, nel deserto un fresco. Now, these certain retreat centers being quite certain, quite unique in character, and certain also not certain so easy to run and certain to maintain, kindly try to let go of the consumer mentality that is, to do a retreat, then to pay, to leave, and don't get involved. Questo centro ha anche un carattere abbastanza unico. Non è molto facile da gestire. Sì, diciamo, per favore, non entrate nella mentalità consumistica di qualche cosa che uno viene, paga e se ne va senza coinvolgersi. No, what we need for heritage protection is a so-called mentality of a custodian, which means that as a custodian of this Dhamma heritage, we try to look at such an oasis of peace, of mindfulness. We try to help, we try to support, we try to help wherever need might arise. Quindi, come tutti i patrimoni, questo centro ha bisogno ha bisogno di una mentalità come quella dei custodi che aiutano, supportano, operano appunto per il mantenimento di questo patrimonio. No, with this we come to the conclusion of today's talk. And I wish that what has been the work that has been accomplished here, the benefits that have been accomplished during this 10-day period, as well as the earlier 10 days, that all of this will be a supportive factor of your further deepening of intuitive wisdom, and eventually may it lead to the realization of the peace of cool peace of Nibbana in this very life. Quindi siamo arrivati appunto alla conclusione di questo discorso, di questo ritiro, e vi auguro che questo lavoro che è stato fatto qua, il beneficio di questo lavoro, di questi 10 giorni o anche gli altri 10 giorni sono stati fatti, possano supportare, aiutare una ulteriore sviluppo della pratica dell'intuizione profonda, della meditazione, e che possa portare a una pace profonda, pace di pace. Now, traditionally, merits are being shared at the end of a retreat, and so let us do this briefly. Please recite after me. The the meaning of the first Padi verse is, let this merit be for my relatives, may they be happy. And then the second verse is, may all beings share this merit which we have acquired for the gaining of various kinds of happiness. Quindi, come diciamo, si usa nella fine di un ritiro, di condividere i meriti che abbiamo guadagnato, ottenuto con questa pratica, attraverso appunto questa recitazione di questi versi che verranno fra poco citati dal Venerabile. Il significato del primo verso è quello. Let this merit, che questi meriti possano siano condivisi con i nostri familiari, possano questi meriti possano essere felici. And then, may all things share this merit. Possano tutti quanti gli esseri condividere questi meriti. Which we have acquired, che abbiamo acquisito, for the gaining of various kinds of happiness, per il ottenimento di vari tipi di felicità. Okay, so let's do this in Pali. Idamme. Idamme. Jnatenam hotu. Jnatenam hotu. Sukhita. Sukhita hontu jnateyo. Hontu jnateyo. Idamme jnatenam hotu. Idamme jnatenam hotu. Sukhita. Sukhita hontu jnateyo. Hontu jnateyo. Idamme jnatenam hotu. Idamme jnatenam hotu. Sukhita. Sukhita hontu jnateyo. Hontu jnateyo. Eta vatacha. Eta vatacha. Amehi. Amehi. Sampadam punya sampadam. Sampadam punya sampadam. Sampe deva anumodantu. Sampe deva anumodantu. Sabba sampati siddhya. Sabba sampati siddhya. Eta vatacha. Idawatacha. Amhehi. Amhehi. Sampadam punya sampadam. Sampadam punya sampadam. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba. Sabba. Sampatti. Sampatti. Siddhya. Siddhya. Idawatacha. Idawatacha. Amhehi. Amhehi. Sampadam punya sampadam. Sampadam punya sampadam. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabba. Sabba. Sampati. Sampati. Siddhya. Siddhya. Sabba. Sabba. Sabba. Now, do you have any questions? Any questions, any comments, anything to share, anything that you would like to say? Avete domande, qualsiasi cosa che volete domandare o che volete condividere? Recommendations how to conduct the retreat better in the future. Raccomandazioni su come condurre un ritiro nel futuro? Yes. I've got a question concerning what you said about the development of mindfulness in big business. That conflict because the example Bayer is not an example for ethical treatment or the. I mean, it's not famous for the protection of the environment. Well, this is true. There isn't that. So that's a poor example. Maybe it's just thing to have more profits and I don't know if that's a good point indeed. Quello che sta condividendo, sta dicendo che l'esempio che ha fatto prima nella consapevolezza negli ambienti lavorativi, nelle grandi industrie, è quello che la Bayer ha qualche critica, nel quanto la Bayer è una di quelle industrie che punta molto al chiaramente come tutte le industrie spesso al profitto e poco alla condotta etica e morale. So, Lila, what you're pointing at certainly is good, and what it shows is certainly indeed a lack of the ethical aspects of just teaching pure mindfulness is not enough, and it should be coupled with ethics for managers, and that is actually in some companies that is also coming. The management of a corporation has written up a certain catalogue of ethical, what they want to follow in terms of ethical conduct in doing business. Quindi dicendo venerabile che sì, è vero che appunto la consapevolezza può non essere tutto, solo abbastanza, ma che dovrebbe essere accompagnata anche da una condotta etica, morale, ma è quello che anche stanno facendo alcune compagnie, e addirittura hanno scritto come dei manuali su quello che dovrebbe essere fatto, di quello che è considerato una condotta etica e quella che no. Well, there's certain, certain companies who do a so-called, an environment, who have an environmental management plan, and they look at certainly the company and certainly the activities of the corporation and certain relationship with the environment, and they try to improve on this as much as possible. Things like this would be necessary too. Okay. Compagnie, fabbriche hanno anche fatto dei veri e propri piani per la compatibilità con l'ambiente, vedendo appunto tutti gli impatti che i processi fabbrica o quello che sia possono avere con l'ambiente, con un contesto sociale. Do you know of any company that combining both mindfulness and their ethics, or that includes both of these? Not really. Not yet. La domanda è se conosceva alcune compagnie che possono avere già messo insieme questi due fattori, la consapevolezza e la condotta etica? Questa è la domanda, la risposta è stata no, non ancora. Well, one point comes to mind, namely, Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts, which is a meditation center, obviously they teach mindfulness, but they are socially pretty aware. They try to include as many people as possible from all walks of life in their programs. So they have mindfulness programs for people of color, and in terms of their financial dealings, those are very very sound. And so some years ago, with the financial crisis, some company was asked to evaluate their financial status, and that company said, "Oh, your financial status is very good. It's far better than most of the other companies that were taking unnecessary risks and so on." So that's a positive, positive approach. With our center in Lumbini, we have a policy of you know, whatever we purchase from, you know, from the market, from, you know, various dealers, we pay right away. No outstanding debts for years and years and years. And so that thing makes for, you know, more honest and straightforward relationship with the suppliers, and they know they get their money, and they value this very much. And in Nepal, it's common policy, or it's common among Nepalese people, that they go to a shop, buy something, and then in terms of payment, the owner, the shop owner, has to run after the clients to get his or her money. I know, and sometimes this can take several months. I know, so it's a big hassle for, for the shop owners. Quindi un esempio che potrebbe venerabile è quello della Insight Meditation Society, che è un punto, questo centro di consapevolezza in America, negli Stati Uniti. Il quale anche sono proprio, diciamo, è come se fosse una impresa, che sono anche inseriti nel contesto sociale, fanno molte azioni verso il sociale, verso seguono anche i bisogni delle persone, ceti magari più svantaggiati, di colore, e purtanto, avendo questa azione nel sociale, durante l'ultima e le ultime, diciamo, crisi finanziarie, si sono dimostrati essere una società ben solida, con un margine, diciamo, di stabilità molto molto alto, e quindi ha dimostrato questo, diciamo, della eticità essere come un approccio positivo e anche alla fine solido economicamente. Ho portato l'esempio anche del centro di meditazione in Lumbini, che, diciamo, loro normalmente, quando vanno a far spesa nella città, hanno l'abitudine di pagare subito e non fare dei debiti che vengono poi trascinati per lungo tempo, come invece, appunto, sempre in Lumbini, in Nepal, capita, perché i negozianti devono sempre correre dietro alle persone, ai clienti, insomma, che non pagano per lungo periodo. Sì. Ok. Yes. Sandro. Una domanda forse stupida, ma per chi come me non sa parlare l'inglese, se volesse andare a trovare a Pandita Lama Lumbini, è possibile, cioè, riuscire a soggiornare per fare un ritiro lì verso Bentaggio di Lutinale? Sta domandando Sandro, appunto, is asking for people like him who doesn't speak English, if would be possible in any case to come in Lumbini to have a retreat there in Lumbini. Well, if a yogi is there who speaks both languages, English as well as Italian, and is willing to translate, then it's possible. And certain on occasion, during the winter months, we do usually have retreatants from some retreatants from Italy. No, but this would be something that needs to be well arranged between you and the center. Quindi la risposta è quella che se c'è una diciamo nel centro una persona che è un altro meditante che vuole, che ha volontà, diciamo, che parli prima di tutto sia l'inglese che l'italiano, che voglia tradurre, sì, è possibile. Però questo è perché, diciamo, durante specialmente i periodi invernali ci sono meditanti italiani che soggiornano a Lumbini, però questo deve venire messo, cioè deve essere organizzato prima, in modo che uno or else. else, or else maybe even better, if you can come together with another Italian yogi who, like Fiorella, who can speak both English and Italian, and who's willing to translate, that kind of an arrangement can be made. Quindi ecco l'altra possibilità, anche migliore, sarebbe quella che se potresti venire con una persona, un altro mediatore che parli sia l'italiano che l'inglese, un'altra lingua, sì, e questo renderebbe appunto, sarebbe ancora più facile. No, basically, if you give your report in simple Italian, I do understand. And if I try hard, I can also manage to talk back in simplest Italian. Ha detto che in qualche modo, se anche diciamo riuscirei a se uno parla in italiano, a capire l'italiano. Per quanto riguarda, durante l'interview sta parlando, che è la parte fondamentale, poi si parla solo lì praticamente, non è che. Però per quanto riguarda la risposta, diciamo con un po' di sforzo riuscirei anche a articolare queste cose in italiano. And then obviously in terms of Damantos in Italian, that we don't have yet. E per quanto riguarda i discorsi di Dame in italiano, no, quelli ancora non siamo. We do still have we have the recordings from here. And we also have the recordings from Cremolino, retreats that took place in Italy, in Cremolino, before I joined here. And so those tapes we still have, and we also have one translation of Sāri Upandita's book in this very life, from English, we have it in an Italian version. Mm-hmm. And so oftentimes what we do is with retreatants who can't speak English, then they just get a copy of that book, and instead of the Dhamma talks, they read this book in Italian, and that works. Quindi pensavo appunto che per quanto riguarda i Dharma Talk, effettivamente invece hanno le registrazioni dei Dharma Talk, dei discorsi di Dharma che sono stati tenuti sia qui a Pianciliegi come oggi, ma anche dei discorsi che sono stati tenuti a Cremolino, nel posto dove facevano i ritiri di consapevolezza prima di Ciliegi, dove i venerabili tenevano. Per quanto riguarda i libri, c'è anche un libro del venerabile Upandita, In This Very Life, proprio in questa vita sentiva, che è tradotto in italiano, e spesso diciamo per chi non parla l'inglese viene dato come appunto a posto da leggere, a posto di ascoltare i discorsi di Dharma. Ok, any other comments, feedback, recommendations, questions? I have a question. Yes, let's see. It's based on the talk yesterday and some days before, when you talk about the ten imperfections, I mean the light in the mind. Mm-hmm. And then I remember Dhamma talk, a tape from Sāri Upandita. It was talking about the light rising in concentration, mm-hmm. in the mind, and he said there are two kinds of light. One is due to concentration, and one is due to vipassana. And it's interesting at that point, he says, this kind of light is a light that is spread in the universe. Huh? That is present in the universe? He said like this? Yeah. Oh, I've never heard that before. So it's it's something that stays in my mind. Mm. So always I wanted to I have idea, but I would like to have a kind of some more on that. Mm. Otherwise, I have to ask this other one. Present in the universe. Ho detto che c'era qualcosa che mi incuriosiva per quanto riguarda la luce. che si può generare nella mente durante gli stadi di concentrazione. E mi ero ricordato di un Dharma Talk che ha tenuto il Venerabile Siato Pandita, ho sentito una registrazione che parlava di due tipi di luce che si generano nella mente, una che viene attraverso la concentrazione e una che invece è proprio è specifica del Vipassana. E quando parlava di questa luce del Vipassana, il Venerabile Pandita ha detto che è un tipo di luce che va nell'universo. Quindi è stata una cosa un po' che mi aveva colpito, che volevo, da molto che avevo nella testa, e volevo chiedere qualche cosa in più. Oh, Venerable Nanda, it might certainly be that the Venerable Sadhu Pandita has said this in connection with the light of Dhamma. And that's in that connection, indeed, there's mention of light, but more in a figurative need or manner rather than literally some light existing in in the universe. So the meaning is that when wisdom arises, then wisdom is said to bring light into darkness. So the light of intuitive wisdom dispels the darkness of ignorance. So the more wisdom arises, the more light you bring into your life. Quindi diciamo, la risposta è che probabilmente il Venerabile Siato Pandita abbia usato questa espressione, diciamo, di luce che va all'universo in connessione però con il Dharma, che il Dharma viene spesso indicato come, come una luce che disperde l'oscurità, ma viene usato più in senso figurativo. And so, from our own meditation practice, Vipassana practice, we will experience light at different points. So, for instance, just before the first insight knowledge comes to or unfolds, then retreatants are likely to experience calmness of mind, clarity of mind, and this might also go along with certain seeing lights. So at that point, light comes up, and then as part of the imperfections of insight, and then later on in the practice, during this knowledge of equanimity about formations, the mind also becomes pretty, as it is pretty pure, it also will be bright and clear, noticeably bright and clear. But that's any meditator who gets this far will have a similar experience. Quindi anche sta aggiungendo che la, diciamo, luce che, si, che può venire nella mente durante la pratica meditativa ci sono vari momenti del insight knowledge nella quale questa luce può sorgere. Nel primo insight knowledge, diciamo, si può sperimentare la chiarezza della mente, chiarezza della mente, della calma. E lo stesso succede anche durante le 10 imperfezioni degli insight che ha parlato appunto anche ieri, e poi ulteriormente nell'insight dell'equanimità, dove appunto degli stati di chiarezza, di calma, di tranquillità diventano evidenti, la mente può diventare molto chiara. So, indeed we have light arising out of the mindfulness practice, and you've heard from Sadhu Pandita, when concentration arises, gets stronger and stronger, then this oftentimes goes along with the experience of various of seeing lights. And sometimes this could be a bright white light or a light of different colors. In the Mahasi tradition, there's even some understand or they say that the color that certain comes up depends on the degree of concentration. So when you have a really high degree of concentration, then I think it was white light certain comes up. For lesser degrees of concentration, other colors come up. But I haven't really studied this. Quindi è un'altra appunto diciamo cosa che si dice appunto, sulla concentrazione, appunto sulla vipassana, anche sulla meditazione, diciamo, la concentrazione di consapevolezza, di consapevolezza che sorge, può sorgere, può venire, può essere visibile della luce nella mente, e questa luce può essere anche di vari colori, a volte può essere bianca o adesso non ricordo se altri, che altri colori, e nella tradizione Mahasi viene detto che il colore di questa luce che sorge è anche indicativo del grado di concentrazione. Quindi una concentrazione molto forte in genere può generare un colore bianco, mentre una concentrazione più debole ha altri colori. Però questa è una cosa che il Rabbi non ha approfondito molto, non ha studiato a fondo. Okay. Anything else? No. If not, then it's time to. I wish you a safe trip back home, and keep up your meditation practice as much as possible, and then come again and do another retreat. E quindi se non ci sono anche altre domande, appunto, allora siamo alla fine. Vi auguro un buon rientro alle vostre case, e vi auguro di mantenere appunto la vostra meditazione, di ritornare qui per un prossimo ritiro. Lui tornerà. Oh, come back? Yeah. I'll be. What, you want me to come back? Vuoi che ritorni? Well, probably in 2014, April 2014. Sì, probabilmente nell'aprile del 2014, fra due anni. No. Next year I'm not coming to Europe. Prossimo anno non verrò qui. Oh, next year, Hannes and Beate are going to conduct a 20-day retreat here at the center, also in April. Il prossimo anno qui Hannes e Beate terranno un ritiro di 20 giorni qui, sempre a Piantici di Ghiaggi, in aprile. And the beginning. Beginning of that 20-day period, there will be more emphasis, more support given to beginning retreatants, so to help them get into the practice. E in quel ritiro ci sarà un'enfasi particolare per i principianti che entrano appunto per la prima volta nella meditazione, per dargli supporto per entrare nella meditazione. Ok, maybe this much for now. Oh, yeah.